ci mettiamo una cosa del genere. Che è questa è che deve entrare? Guarda che siamo in AM. Se vuoi entrare, siamo in AM. Che banda mi sembrava? Che banda era? Ah, si devo entrare. E la Puglia. Puglia entra, se vuole entrare, facci compagnia a me. Ehi, ma vedi, adesso la gente in giro. C'è la festa in qualche cosa, a partire c'è la festa. Ehi, sono tornato a Portarola, ho già fatto un giro, e che altro. A prendersi il caffè, il gelato. Ehi, giù. Proprio Plattamona, gatto, è tutto abbandonato, gatto. In realtà cosa c'era un sacco di gente a Plattamona. C'erano le bancarelle. Sì, adesso magari cominciano le belle giornate, però come cosa è troppo sporca. Tutto abbandonato, ahimè. Io lo sono visto. Già sono come quelle spiagge che devo stare lavorando io, gatto. Non vedi un pezzo di carta, gatto. E quelle sono pulite perché sono volontate a fare che con le spiagge, ci mancherebbe. Cazzo, ma belle buie, acqua chiara, bella chiara l'acqua, cazzo. Non vedi neanche una di quelle alghe, paglia marina, non le vedi, cazzo, vedi tutto sabbia, cazzo. Bella, cazzo. E quello è così di storia. Poca gente, anche se quei giorni stavo facendo che c'era caldo, però c'era molto vento. Era questo quello che lo sai. Ma siamo come periodo giusto. Gli hotel sono tutti quanti chiusi, quindi fino a fine primo di maggio non aprono. La gente sta cominciando a arrivare. Sta cominciando ad arrivare la gente. L'anno scorso è arrivata alla fine agosto, se ti ricordi, perché stava sempre piovendo. Si è fatto tutto settembre, si è fatto. Di lusso. E mi dica, in caso in quel centro commerciale che sono io lì a Marinella, colpo di Marinella, cazzo. Ti perdi, ce ne sono due di cose, che cazzo, quanti appartamenti, cazzo. Meglio così, mi fa parte che già se li comprano quelli. Tutti venduti sono perché stiamo facendo restaurazioni, capito? Stiamo facendo una restaurazione in un centro commerciale, cazzo. In un minimo ci saranno un 500 appartamenti, cazzo. Beh, ricordi sempre che quando uno pigliava l'appalto lo pigliava in basso, quindi il discorso è quello lì. E tutti di fronte al mare, mia sorella. A 20 metri alla spiaggia. Ma voglio vedere di tutto lì. Non chi fuori tedesco. Cazzo, lì è bello andato in piena estate. Se ci sono andato in piena estate, cazzo, solo che non si fanno entrare, cazzo. E che mi metti fuori dare così a te, sei in acqua. Non ti fanno entrare, in quei centri lì non ti fanno entrare, se non sei residente. È logico, avanti, il pacchetto non c'è chi è? Stazione del Moro. Ciao, Pinocchetto, Alessio e Tonio Attila. Ehi, Cappala, qua verrinate Punta di Sassari, Monteferro. Monteferro, non Monteferro. Montefu, non lo so, qua sopra di via Promessetta, eh? È Montefu, quello, eh? No, l'ho acceso a vedere se riceve qua, non state zoccando qua su. Vabbè, dai, continuatela. Non voglio che arrivi qua, ci mancherebbe, già sei entro la buona. Lì la produzione da voglia. Avanti, Tomì. Ciao, Pinocchio, ti ascolto perfettamente bene. Meglio da professora, Eda, che ti sento un po' così. Ma neanche io ti ascolto lì, quando certi giorni, magari c'è quel REM, io con REM non ne avevo e ti sentivo il pio pio. Non è che siamo manco a un passo, anche dal coso, dal clima, della temperatura. C'è una bella giornata qua a Sassari, però non avete fatto i monelli e il carbone, ce l'ho tutto, Ah, tutto il carbone ce l'hai tu. Sono venuto a consegnare ai signori Monelli, ma non li stanno consumando. Io gli avrei finito che vuole carbone, se non fa freddo. E se non piove di aria, vai. Quello non gli dico più, c'è. E non ne serve, no? Io sono in abitazione, c'ho il gas. Mio, tanto mi sembra che non li usa di legna. Avanti con lì. Oh, niente legna. Niente legna né carbone. Alla parola se Pino c'è qua. Va bene. Dai, bianco per me. Sto guidando dentro la città, dai. Proseguite voi. Sì, d'accordo. Questa c'è crisi per la legna, molto molta crisi. Sì. Il cazzo adesso arriva una nuova stancaccia, gatto, senti dalla televisione. Io non la voglio a carbone a Cagliari. Tu quando vai, se non voglio le centrali, un sacco di gente si metterà cosa al gas, cioè al gas al carbone, fa prima. Compra 10 quintali di carbone, se mette sotto a casa, ogni tanto lo sale sopra e via. Certo che, ma adesso l'impianto qua sono già aperti gli impianti, no? Adesso stanno cominciando a, una volta che si fa i clienti, poi dalla stangata, cioè, adesso stanno risparmiando in proporzione a come pagavano le bombole, stanno risparmiando, perché io ho sentito uno, ho detto che aveva pagato 40 euro. Proporzione alle bombole che ne prendevano due, la bombola costa 35, sono 70 euro, e mi risparmiato 30 euro, poi arriva la stancata. Ma la bombola 10 o la bombola 15? La bombola da 15, la bombola da 15 costa sui... no, 37 costa. Ah, la 15 sì. Costa 37 euro, e hanno risparmiato, pagato 40 euro, no? Andiamo di nuovo con la legna, se non c'è il pellet adesso, metti mais in casa, una volta lo raccogli, qui ci metti dentro la stufa pellet, in inverno. O al nocciolino. O al nocciolino, non so, ci metti cose, vuoi dalla... dai falegnami e raccogli un po' di roba. Ah, fa la camera della serratura. Io no, magari arriviamo a quello. Sì, tu prendi quei tronchetti che arrivano dal coso, dall'Alt'Italia, ti dicono che è legno, la scalda, Però è tutto quanto roba macinata. Meglio di niente, infatti che funzioni, poi... No, di funzionare funziona, è scalda anche. No, loro dicono legna di pioppo, invece è roba macinata, la piccola. Roba macinata fatta a cubetti, lunghi da 40 centimetri. Non è che sia legna, però a scaldare scalda, accende subito. E ti dico che dura anche, però sempre drucciolato. Positivo. Beh, infatti funzioni. E poi se vai a comprare di quella lei, la legna, quella legna secca, quella fa la fiammata, anche se quercia, fa la fiammata si spegne subito, caro, perché è secca e non ti riscalda molto. Basta mettere olio, guardate come scalda la legna, sai che se ci metti olio usato in mezzo alla legna ti abbrucia poco già. Sì, lo so. Lo so, ormai è l'odore, capito? È l'odore che esce. Ma adesso questa pelle è già... Solo che quelli costano una barca di soldi, cazzo. Quello è un sacchetto, so. Ma non è il coso, non è il pellet, no? sistema stufa che cosa? Per riscaldare un ambiente da 200 metri quadri, nel senso che mi sembra che viene a costare sulle 4-5 mila euro. Antonio, io avevo fatto il coso, io è venuto qua per scaldare, mi ha detto la più economica che c'era, 4.400 euro. E non è meglio il gas allora? Ti metti la bomba laggiù? Ma infatti conviene più il coso, il coso, l'impianto è più qualcosa, il scaldamento a gas. Un bagazzato, ma a pelle se ci vuole, no, ce l'ha un mio collega che mi ha consumato, funziona a pelle, a nocciolino, a salsa, a mais, a legna, molti carburanti, mi sembra che ho consumato due palle di pelle. Qui c'è anche la cosa tipo caminetto, come si dice, che riscaldate tutto, ci sono i termosifoni, quindi basta fare così, se ti buschi un po' di legna, carbone, quello che c'è buono in mezzo e via. Io ho una stufa, un caminetto termico, l'ho vista a cosa, Oriena, ma grande mia Antonè. L'appartamento minimo era sulle 250 metri quadri e dentro il caminetto c'erano due grossi tronchi di legna e rimanevano accesi 24 su 24 questi tronchi, in qualsiasi camera che entrava c'era un caldo da morire d'inverno. È logico, se buschi di quei tronchi di albero secolari già ce la metti a accendere, ti manca una settimana accesa. Qua c'erano due tronchi grossi di quercia e mi sembra che c'erano 4-5 giorni ancora, cazzo, ma ce n'erano che gli ho detto due tronchi così ne duravano anche 15-20 giorni accesi e ne rimaneva acceso sempre con quella fiamma, la fiamma non era allegra però era sempre continua, capito? C'era la fiamma una ventina di centimetri, cazzo, ma c'era un caldo da morire, cazzo. E beh, così, ma quello vuol dire che stava bene, c'erano un po' di... Ritengo che c'erano querce, se no vai a comprare una querce ti costa già. No, questo so quanto era per suo, capito, vai. Mi sembra che si era passato il fuoco e ha fatto la domanda, naturalmente. C'era per la forestale e ha detto gli alberi che doveva tagliare, ma se le tagliava piano piano, se le tagliava. E se la portava in cortile, cazzo, teneva, cazzo, ma il caminetto era enorme, cazzo, andava una camera, una stanza, cazzo. Io non so, ci sono di quei caminetti molto grandi, già vanno bene. Lui e lei gliela comprava, c'aveva caldo, per tutto l'inverno, cazzo, figurati, quando metteva due trulle che duravano 15-20 giorni, cazzo. A voglia. Avanti. Chi sei da almeno? Povero, c'è la compagnia di Antonello Pompone, non so se lo ascolti, vai Antonello per almeno. Ciao, Fabio Cora, saluto il mio sentito, che mi ha ascoltato. Quindi sei in giro in pianeta, sì. Ma non è positivo, va bene allora. Fai bene, almeno sventi un pochettino, se stai in casa. La fretta del tempo, meglio stare in giro. Così sono contento. Avanti, Tonino. purtroppo non riuscivo, non immaginavo che avrebbe fatto un metro, perché sono negativo, esagerato. No, perché c'erano dei CB, era dormito, boh, era impossibile, magari ti trovo, ma alla parte andando verso fuori oppure all'ingresso dove c'è il cimitero, sì. Ciao Padiroglio, no, lì c'era un CB che mai arrivava qua, a Usini. Almeno c'erano 4 CB, c'erano una ragazza e due maschi, c'erano, ma non l'altro. Non ho più sentiti, da fare contento. Ma dici la verità, sono senza sentirli una quindicina d'anni, eh. Era una cosa del genere, esatto, si commentavano, c'era una coppia di donne e poi c'erano 3-4 che modulavano da Olmedo. Qui c'erano 4 camali di Alvero che andavano lì a cercare donne. A voi si pare di tutti. Quelli, ma neanche ad Alghero ho sentito più né la Parrera né e tutti gli altri là. Tutti spariti sono, tutti spariti di qualcosa Alghero. Sono andati pochi. C'è il computer ormai, quando vai a conoscere qualche ragazza vai sul computer lo conosce, magari per qualche croce, ma comunque non fa niente. Non nessuno sa nulla, non ti sputtano. Ma è sempre cortesello. Un conto è scrivere, l'altro è parlare e guardarsi di persona. Quando cominci a parlare e guardarsi di persona, stai a far cura che la cosa cambia. Yam yam. Riprendi Olmedo. Le L519 e mi ero l'ho usato ben poco perché quando agganciavo disturbava tutti i televisori. Aspetta, che non sono dubbi a me. Ma il maggiore numero qual è quello dell'MK4 che ne parlate? Quello già capito il primo numero uno quando il primo modello c'era i leggi rossi tipo Smith da. Era cazzata quella cambiata. Ma poi a chi l'avevo dato, avevo dato io il sommercamp, che c'era una fesseria bruciata, e l'amplificatore. Infatti, come è partito da qua, è andato e in un'ora mi sono a posto sia la radio e e l'amplificatore. Poi me l'ha fatto sentire, funzionava bene. Vabbè. E poi mi ha lasciato quello vecchio, vecchia ratta che c'avevo sempre, che avevo fatto arrivare dalla Spezia, il 132. Ho visto che sta funzionando sempre bene, no? E così che mi lascio questo, mi lascio e boom. Avevo cambiato quella resistenza. Cazzo mi funziona che un gioiello è. Quindi così, se hai cambiato la solita resistenza, funziona bene. Basta lugare. Infatti, visto che c'era era piccolina, e tu me la vedi invece quella grande, quanto il mignolo va, bella grossa ombrosa. 10 ohm, 10 watt, che ti pompa di più. Ma infatti che me ne accorgo quando lo accendo, che vado in corso, va l'ago si sbatte alle pareti. Perché pompa di più? Poi più da 30 km con 10 watt non succede nulla. Se non sai quanto devo ingresso io? 3 watt e mezzo qui. Se va bene, se turba così va a salutare, non toccano più. Perché ho provato a dare 5 volte l'ingresso e il lago si sbatte alle pareti, cazzo. E beh. Magari se riesco a trovare cosa, un wattometro più grande come questo, però più largo come scala, va. Si può cercare un wattmetro piccolino che ci apre un wattmetro, cioè ci apre lo strumento più largo. Ecco, sui 135 c'era uguale a questo, però arriva fino a 400 watt, capito? Se andava bene uno di quello lì. Se si trova, per quello non c'è problema. Perché se un pilota con 5 watt là fa tanga, tanga, e così che no. Non posso ne aumentare solo massimo quando le do 2-3 watt e mezzo l'ago arriva a 200 qualche cosa là, diciamo. Ci vorrebbe un trimmer messo in serie per fare la regolazione del watt metto. Infatti che procedere il trimmer adesso, basta regalarglielo. Ma non è stato mai toccato, capito? Non è stato mai toccato, questo è successo da quando l'avevi messo quella resistenza più grossa. Beh, infatti il trimmer non è neanche toccato, ovviamente, l'abbiamo visto. Basta mettere un wattmetro in serie lineare, basta guardare il wattmetro del wattmetro, si regola poi il wattmetro che c'è lì, che non è che sia chiaro, che sia perfetto 100%, ma già si può anche fare la regolazione. Perché il BV-135, che ha 4 valvole, 2 valvole, c'è uno strumento uguale a questo qua, grande come questo qua, però arriva a 400 watt. Arriva. E trovandolo uno di quello lì, smonto questo e il piatto quello da 400, capito? Sì, ho capito. Ma di quello del BV-2001, di strumento. Uguale, ti batte la volta, pure. Ma del BV 2001 è troppo grande, Antonè. È troppo grande. Va bene, è quello del BV 185. Ma che sia troppo grande? Piccolino allora, piccolo piccolo. Se tu guardi bene le cose, il 132, il 135 è uguale a quello che ho io, a 132. Gli strumenti sono uguali, questo arriva a 200, quello là arriva a 400, capito? Provandolo uno del BV 135, levo questo qua e ne metterei quello del 135 che è migliore, perché almeno l'ago posso aumentare sino a 5-6 watt, capito? E segni di più. Ho capito, se va bene allora. Ma vediamo, se riesco a buscarlo uno che te lo busco. No, ma però se riesci a buscarlo uno, tanto a piazzarlo già costa poco. Devo quello di saldare, aggiungere quello là e poi saldare, mettere più a fare quello là, sono uguali, sono qua il 200, il 400 almeno. Guarda, se vado un coso con 5 watt l'ago sbatte alle pareti, quindi che come ingresso le sto dando 3 watt e mezzo e arriva a 200. Quindi fate apposta. Va bene così, va bene. Speriamo di buscarlo. Ma io ci sembra che ce n'è qualche duno di quel BV 135. Se non è stato operando, magari che sono quasi. Ma perché qualcuno non sta più usando niente di quella strumentazione? Se te lo regalo, te lo regala, te lo prendi. Bisogna chiedere a cosa a Radio Amatore, a Antonio Solina, sa, mi sembra che ne ha di questi aggeggi. Aspetta che lo chiede a lui, magari c'è qualcosa. Se lo sento, sono da parecchio che non lo sento, se lo sento glielo dico, vedete. E di già c'è problema. Vabbè, vabbè. Beh, questo c'era la bellezza, questo qua, subito, fa 25 anni, mi. Sì, ma voi, è vecchio, beh. Certo, mai successo niente, mi. Mai successo niente. Meglio così. Vedi che la roba c'è stata appena, se non c'era toccata, funziona sempre bene. E non si rovina mai. Quello sì è vero. Infatti quando ci avevo quello che avevo comprato da Itti di 2001, quello era uno strumento che aveva solo e basta. Quando stavo modulando proprio qua, tanto si è sciolto il PL, che è un grido. So, mi sembra che stavo parlando con cosa, con Claudio. Stavo dietro quando vedo questa cosa scendendo, sta quel piede, la plastica all'interno, che è tutta sciolta. Che. Sì, perché si è scaldato. Allora ho messo di quelli coso in ceramica. Che. Quelli non si sono mai accomodati. Quelli sono buoni. Quelli sono buoni, perché quelli là quando li saldavano si scioglievano, che. Anche saldandoli. Ma anche quello non andavo mai, massimo che lo che andavo con quello là, quello che avevo comprato da Icchiri, 400, 450 watt, boom. Quindi è buono, a voi gli abbatte anche il piccolo del soffio. Spiegate voi già niente subito. Iommo, iommo. Piccolo a 4 watt, c'è un po' di corrente, no, non lo sento. Massimiliano il bulldozer, compagnia di Gianluca e Bombolito, vai Bombo. Bombolito non si è copiato. Bombolito, hai già chiamato tre volte. Ciao Massimiliano, ben sentito. C'è anche Giampaolo qui da Capatango, te lo mando avanti. Ciao Giampaolo, buonasera. Dove adesso è della partita Giampaolo, forse è andato a posto il volume. Allora, devo recuperare di 10 gradi Claudio, ho messo un po' da parte un po' tutta roba. Non c'è poco da recuperare, mi si manca quello del pannello posteriore, bisogna comprarlo uguale per poter attaccare tu il maschio, capito? Altrimenti è un casino, allora bisogna, se non c'è quello lì, bisogna fare quello che ti ho detto. Prendere i due, il positivo e negativo, tirarli fuori, quando muto e inserire il cavo diretto, numero che sia isolato, capito? Sì, ma una soluzione già la troviamo, dai. Per me non è un po' bravo, ma poi già lo sistemiamo, non c'è problema, no. Avanti, Bombolino, ci sei, se no le fai tu Massimile. Fatto, era così a Can Piccolo, vero? Ma che è vero, Massimile? Ma ciao ragazzi, dai, ok, buonasera, ciao Antonio, ben riascoltato là. Io ti stavo dicendo una cosa, io più tardi sono su lì da mia suocera, se ti fai un salto te la prendi una cosa. Se ti fai un salto, io mi faccio un salto, ma io penso che mi pigiamo i pantofoli. Sono pantofoli, non so come te, non c'è più io. Ciao ragazzi, that's solo a quelli che hanno la patente a fare motore, tu ci metti su un garraggio, quindi date il nome dove. Sì, devi dire così, no, al governo di Sorso, il sindaco di Sorso, capite? Importante, beh. Comunque, quello che intendi, mappa per Antonio Giuseppe, la web su Breno, e se esci tutto molto importante. La portate qua. Ce la portate? Sì. Ma che cazzo è? 9 e 10 qua. 9 e 20 qua. Dove sei tu? C'è la vitella. A casa c'è Massimiliano. E io. Qua c'è Santiago 8. E arriva la portata. E Santiago 8, 9 e 20 a Massimo Segnale e a Ali Punti, e perciò non ti fermi occhi. Sono qua Massimiliano, sai che non c'è nessun problema, sono qua. Non signori che vi saluto, comunque qualche numero di antenna di acero dare, da, mi ha dato questo amico che non se ne faceva più niente e ce le stiamo dando, va. Se interessa qualcuno, per la 27 però Non dare quella, se c'hai quella in macchina ce l'hai quella nera? Io, quella nera ce l'ho in macchina, te la, me la metto in macchina così te la salgo a fartela vedere. Pensare, ma che dico, se quella lì, sa, sono qua, vai, i nuovi video sono qua. Fra un po', là, fra un po', adesso cambia la pupa e poi saliamo là. A più dopo, ciao a tutti, buonasera, buona continuazione, riprendi a bombolo e fai girare la ruota. Gappa, gappa, ok, ciao Massimiliano, ci risentiamo le prossimine, avanti Rita. Rita non c'è più, Claudio? Claudio, mi senti? C'è un po' il canale? Non vuoi più nessuno in occhio. Eppure sta uscendo questo paracchino. Sandro! Ha ha ha! macchia? cosa qua. Stai chiudendo? Vediamo un po', ma mi sente? cadù con cosa, se non ricordo come si chiamava, nel canale del 23, io rimanevo nel canale 14. In quel che pigliava, io mi pigliavo ancora più, c'avevo la cabina 23, c'avevo una radio di quelle vecchie del padre, detto che era l'allenatore. Facevo la cabina 23, col canale 22, e col canale mi pigliava, mi hanno dato un'emilia. Ma quel posto sono 23, no, io sono qua e qua rimango, se ti piace per di no, che se no arrangiati, io non ti intendo, arrangiati. E infatti, ma non si può parlare così, cazzo, cioè due canali di distanza, uno all'altro così, e poi ti cini, e ti fai. Ma non già parlo, se non già parlo sono 50 metri, ma anche se andrò con Gianluca sono 50 metri, perché Gianluca è la via dietro, praticamente scavalca la palestra e lei ce l'ha davanti. Mentre Sandro è proprio di fronte a Giampaolo, capito? Si vedono tutte e tre, è allucinante, sono troppo vicini. No, adesso che sono più vicino la migrazione è sempre brutta, vero? Sì. La migrazione è sempre brutta la vicina così. Non è chiara, non è limpida lì, ti sento, non c'è problema, però non è limpida la nuvolazione, è tutta impastata, deve essere col microfono che non va bene. Infatti io mi sono sempre detto col microfono, perché se la prendo con un CTE ho detto malattia, ho detto una bomba. Ma scusa, lascio un attimo la galera con la bambina e salgo. Sì, tanto ancora non è pronta la cena, quindi batte la noce. Allora, Claudio, il controllo c'è qua, non è questo. sono un attimino alla parte mia. Molto brutta in casa, comunque la Juve, vabbè, la Cesena, 4 giornate, capito, Claudio? Ho fatto 4 giornate e ieri ho finito, capito, no? Nulla di... Dice, per la prossima, alla cavalcata, ho trovato, vabbè, in 4 giornate, Claudio, ho beccato 200 euro, cazzo, non sono a buttare via, no? No, negativo, va bene. Ascolta, vabbè, niente, te lo dico una cosa, ma non te lo posso dire, perché so, vabbè, Tonico, so che Piantare sì, mi stanno cercando un barista, non so se lo vogliono maschio o femmina, non lo so, perché non ci passi a chiedere senza così, senza dire niente, capito? Ho sentito che state cercando un barista, questo per me è così, perché non provi? Da signor Ricco. Ehi, da signor Ricco, io non ti ho detto nulla, capito? Non ci passi così, perché me l'ha chiesto a me, però non so se sta cercando un maschio o una femmina, capito? Però, so che lo stanno cercando, che sono incasinati. Andrò domani o dopodomani, così tutti, già tanto domani mattina dovrei entrare con le parti. Che faccio di tributi glielo chiedo. Se vuole, se interessa, sono pronto, l'hai capito, non c'è un problema. Esatto. So che le serve, lo so per certo, perché me l'ha chiesto anche oggi, capito? Me l'ha chiesto anche oggi, quindi io non ti ho detto nulla. Non ci passi, già ti amico qualche volta con me e con altri, ci passi, me lo dici. So che state cercando un barista, se non puoi interessare io sono al mestiere, sono disponibile. Se ti fanno fare la prova la fai e non te la frutti nulla, capito? Sei sicuro perché pagano bene e soprattutto è puntuale, una persona seria e non ha problemi a pagare. Va bene, non c'è problema. Non c'è problema, sapeva già, mi avevo già lasciato tutto il mio numero, tutto qua, il curriculum, ce l'avevano già, il Enrico ce l'aveva già, perché io avevo già fatto un paio di noti lì, quando c'era il karaoke, se si fa in Montigua, servivo un paio di persone e siamo andati e mi conosce abbastanza bene, avevo già parlato di questa questione, capito? Cioè, ho detto se gli serve una mano oppure serve un dipendente, sono pronto. Quindi passaci, non dimenticare, passaci e poi mi fai sapere, capito? Dai che vado a mangiare Giuseppe, sei con te, ci sentiamo dopo, ok? Ecco, anche io tanto devo andare a mangiare alle 3, ci sentiamo dopo la casa, ciao. Bueno. c'è stato poi SEO stasera? Ah, è cessato già. A voi è cessato, guarda. Adesso apro il guasto. Guarda come ti arrivo con i fatti aperti. Dici il segnale, nel senso che la radio diventa proprio pulita pulita e si alza anche di Santiago, capito? Però la sera devo tenerlo con il tutto basso. Arrivi bene lo stesso, non c'è problema. E chi c'era? C'era Claudio, è entrato Luca, non è entrata gente. Adesso ma dove sarebbe entrato invece ancora entrare. Chi è che ha detto sarebbe entrato? Claudio. Fabrizio, non si è sentito? No, non si è sentito. Ma Fabrizio non si è sentito per niente, la verità. Attenzione Fabrizio, se mi ascolti. Cappa deve essere al lavoro, dai. Attenzione Claudio Sparviero. Tu lo sa. Cappa, cosa qua? È un bel palazzino, eh. Ha sempre funzionato bene, eh. Grazie, certo. Ho messo in moto, l'ho messo. Non ti dà un'ottima modulazione, nel senso molto chiara, molto bella, presente, ottimo. Cioè, proprio adesso l'alto. Un po' forte adesso. Ti stai un po' comprimendo, aspetta che... vedere se c'è qualcuno su... sulla frequenza, ma non sento nessuno. Già fa. Quei fischi già no, già non me ne fa, soprattutto c'è l'antenna così. C'è la fase magnetica attaccata lì a un portafinestra, già l'hai visto. Cazzo, ma che è quella di che antenna è poi? Ma Sirio, Io 2001? No, 2001 è l'ERM. 2000. La Turbo, perché la Turbo è 2001? È un Assirio Turbo 2000, a 2001 LM, lascia perdere, questo è Sirio. Salute. Cosa? Era più di 20 anni, cazzo. Ma guarda, mi ha dato sempre soddisfazione, mi stava la soddisfazione, la verità. È stata modificata, è stata, perché giusto questa antenna nasce con l'attacco a vite. Qui già l'abbiamo fatto lungoso, la... come si dice? È stata modificata con la filiera, è stata messa la fare per metterla a fanculo. Per fare da quell'attacco l'attacco normale, hai capito? Atto, ma quando l'ho messa è sempre perfetta. Cappa, che hai rifatto la filettatura, dai. Cappa, ho rifatto la filettatura perché non c'è andata nell'attacco normale, capito? Infatti se tu la guardi bene, è modificata appena. Però guarda, è buona come antenna. Cappa, guarda, non la comprare, compri un Assirio. Sono buone, adesso domani non la devo piazzare, mentre la 2008, al posto di questa... come Marringo. Cazzo, Marringo è un'antenna particolare, se vuoi che vada devi fare gli accorgimenti. Marringo è... sai che cos'è che... cioè quel piccolo problema di quel funghetto che gli mettono dietro il PL, l'attacco del PL, che se non lo isoli bene ti manda a massa l'antenna prima del dovuto e ti crea stazionario. E dopodiché quel cursore cagato che ha, lì la ringo, una volta che tu la senti, bisogna che proprio saldi il petto sulla molla di carica, allora sì. Sì, basta a farlo, ci vuole niente, no? Infatti non è che già non ci vuole niente, però visto che ce l'ho la cambio direttamente, vedo un attimino. Vedete che condizioni è quando la butto giù adesso, perché era già da mezzo danneggiata, capito? Comunque. Capo, ma non è provato, ma scusa, quando stringi quel morsetto no, non rimane stretto, non dovrebbe andare nessun luogo. Lo so, ma è una di quelle che ha subito una serie di modifiche, perché prima gli avevamo messo il radiale, adesso non ce li ha più. C'è tutta una serie di cose diverse, capito? È caso, allora sono state fatte cose fuori dal conto per quello che si è rovinato un po'. È possibile. Ma sì, ho una bella intenzione di riproporla e farla in coso, in rame. Come da una volta? Esatto, esatto. Riproporla, provare a farla in rame, perché realmente se vai a vedere quanto costa di farla in rame, considerando che i tubi di rame costano circa 10 euro per 2 metri, questa qua è 4,80 metri, diciamo che con 30 euro, cioè quella che la paghi nuova comprando nel negozio, te la fai in rame completamente. Sì, così è, ma quella lì se ha un buon coso, cioè se sono fatti bene quegli affari, tutto quanto, se sono collocati bene, isolati bene e cosa, non dovrebbe mai dare fastidi. Dopo molte volte fanno le cose un po' così, perché già si sa, se tappeti pure tu e ti fai tutto quello che devi fare, infatti Dio non te ne darà più. Già lo so, adesso vedo, ma metto la 2008 e faccio prima. Tanto scusami un attimino, mi sono appena rientrato a casa, sono entrato perché ho fatto la chiamata perché pensavo ci fosse qualcuno, ma un attimino, il tempo di mangiare qualcosa e riprendo fra 10 minuti o un quarto d'ora, dai. Capo, se non te fai niente già lo sai. Cappa di rozzero. Cada gara e cada rozzero. Poi ti devo chiedere anche un consiglio, dai. Ci sentiamo dopo. Come? A proposito di queste bombole, di queste, non so se le conosci, le Twini, della Liquigas. Poi le ricaricate o no? No, poi le portate a pistolotte. Se non le vogliono, diciamo se ne vogliono per ricaricare 5 litri di gas, 5 litri mica, se vanno al distributore sono 80 centesimi al litro, 90 centesimi al litro, se vogliono 19 euro, secondo te? Così è, tanto, purtroppo quelli sono molto del gas, che hanno gli attacchi loro, hanno, hai capito? Purtroppo è così è. Ma lo sai che hanno una specie di hanno un attacco particolare, per cui devi mettere un aggancio, un rubinetto particolare, lo stesso come in castro, che ha una valvola di non ritorno, quindi tu non la puoi riempire di nuovo la pompa, la capita. Io ti può riempire, ci vuole l'attacco, ci vuole, solo che è maledizione, a caso mi metto una sfera adesso per non travasare. Ma dopo fanno di ghisi. E forse entra, forse. Trovo un casino, quelle lì sono un po' così, sono un po' carogne con le bombolette. Eppure fanno solo loro, C'hanno un diametro da 20, mi sembra, non mi ricordo male, pure il figlio. Ci fanno il regolatore in casa. Bravo, bravo, c'è proprio il regolatore in casa, però quel regolatore lì è un regolatore che ha una valvola di non ritorno, evidentemente come hai detto c'è una sfera, se gli spacchi quella lì riesce a riempirla, se no minchia, cioè 4 euro al litro ti fanno pagare come ricarica, magandone. Così è, anche così è. Purtroppo se le fanno pagare quelle, ma c'è qualche problema? Capito, c'è? Ma aspetta un attimo, Otto, che sto facendo un attimo. Aspetta un attimo, Otto, che cazzo. Io ti devo fare. Che cambia il baracchino. Ma di Ruggero. No, ancora qua. Antonio. Che cazzo. Beh, ci tira un po' di meno, ma già va bene, non stesso, dai. Casino, sai che faccio? Questo già va bene lo stesso. Che cos'è? Ti stavano sentendo in tutti i canali Rai? Adesso cazzo di televisione, merda che fa. Dai, dammi 5 minuti che sto rientrando. Dai. 150. Sto testando un pochettino, c'è praticamente sì, c'è il mercato a livello europeo si è abbastanza livellato, quindi prima con l'IVA, oggi conviene più per esempio con la macchina comprare le altre, forse più conveniente in Italia. Però la mai scordiva. Via. Ma carità, continueremo un po' più attaccato. Andremo bene in Italia. Tutto fatto, ha sempre un buon modo di racconto, stavo venendo, hai visto? Ma cosa cazzo fa quel giorno? Se mi faccio la gana, adesso come aperto, prima di puntare, cosa? Ma cercando, perché tu non te lo sai, come prima attività non fa niente, almeno per un anno sei un po' più scordato. Ah, poi che come sta già l'altrano, come sta già le mazzate. O Giulia, proprio te ne faccio tutta la voglia di aver fatto così. E poi vuole troncare anche. Perché troncare? Perché sono mazzate, agite, malassorti, tutto quanto. È una cosa impressionante, guarda. Io lo so, veramente, fa la guerra. Cosa c'è più guerra? Se te la fa nulla, se te la fa più nulla la guerra in quel paese lì. E lo sapete, che si può fare? Non so. Perché la gente da fuori sta andando. Ma la guerra se te la fa anche tu lui stesso, guarda. Non è adesso, è il dopo che vengono i colpi, le mazzate. Purtroppo da queste cose è come la benzina, cazzo, non puoi fuggire al lungo, no? Quelle lì, se non stai attento, ti diventi sacche e sacchette. Non so. Comunque non ti posso dire. Lasciamo fare, magari gli va bene. Lo sai com'è, anche le altre che sono fatti, cazzo, un affetto, qua. Pure visto da poco ce ne avevo di genitori. Cazzo, è arrivata là, è arrivato all'altro anno, sono cominciati le pantotte, sono purtroppo siamo in Italia, ragazzi, non mi puoi fare i genitori. Sono incominciate le pantotte, sono incominciate, no cazzo, allora ho messo di stretti, ho messo. Ah, allora ti addormi, cazzo. Non lo so, dipende, poi uno fa quello che riesce a fare, poi c'è tutto subito, poi si vede cosa dici, uno ci prova, poi in qualche punto, non so, uno vuole lui, poi se non ce la fa chiuderà. Ma no, è come, se vuole campare, è proprio da aumentare il prezzo, qua crede, queste ore lì, se non stai attento, ti rimetti tutto, già noi siamo così, perché cazzo, togliere tutti, guarda quanti soldi dobbiamo togliere noi, togliere a pagare a noi, togliere a pagare se la pagare l'affitto, i locali sono in affitto, togliere questo, togliere quest'altro, cazzo, dove è cazzo devi guadagnare? Lo so com'è, lo so, però uno per inizio e poi purtroppo è così, è una lotta continua. Lo so, bisogna stare molto attenti ogni giorno, molto attenti, perché a Vapuro ci fai di là, a te li tieni su cari pensamenti e l'anima. Lo so. No, io sono un po' paranoico e poi sto leggendo e sono anche distratto. Quindi sono un po' distratto, sto dando un'occhiata a un paio di cose che potrebbero essere interessanti, capito? Aspetta, io sento proprio a fare una chiamata Alighero, se c'è, aspetta. Attenzione Sandro Alighero, attenzione Sandro Alighero, se ascolti Sassari. Finalmente ci siamo parlati. Allora, perché macchina? Di sera. mi sentiva mai, finalmente ha sentito la mia voce. Molto grande, lui ha questo in ascolto. Oh, era con la famiglia in giro. Non voglio essere come mi ha beccato quella parecchia qua. Vediamo adesso, non so se è proprio distratto, se c'è un po' di traduzione. E qui da prima tutto in tedesco è un casino. Sono tutto in casino, questi pezzi tedeschi, io lavoro per un'azienda tedesca, ma fate bene, devo anche capire cosa scrivo. No, c'è un sacco di roba interessante comunque, lo sai. Fai, no, non c'è problemi.